Everything you are. He didn't mention that I also walk on water. Non ha menzionato il fatto che io cammino anche sulle acque. Probably not. Prova, ecco. All right. Well, I'm glad to be here again. Beh, sto contento di essere qui di nuovo. I love this church and congregation. Io amo questa chiesa, questa congregazione. I like the life that I sense when I'm here. Amo la vita che percepisco quando sono qui. And I feel right at home. E mi sento proprio a casa. Let's pray and then let's see what God does with what He's given me to say to you today. Preghiamo un attimo e vediamo che cosa il Signore vuole dirci questa mattina. Lord Jesus Christ. Signore Gesù Cristo. Nothing happens without the Spirit of God moving upon us. Niente succede se non per mezzo dello Spirito Santo che si muove in noi. We can put the Word of God into our heads. Possiamo mettere la tua parola nelle nostre menti. But we need to move it 18 inches or 20 centimeters to our hearts. Ma si potrà muovere, si deve muovere quei 20 centimetri per arrivare poi nei nostri cuori. We want our lives to be changed. E vogliamo che le nostre vite siano cambiate. Our beliefs and our values. Che le nostre, i nostri valori e le nostre convinzioni. Altered and made right with God. E siano alterate per essere in linea con la volontà di Dio. We want to be example A. We want to be example A of God's power in the world today. Noi vogliamo essere esempi della potenza di Dio in questo mondo oggi. Thank you for your word. Grazie per la tua parola. Thank you for the power of your word. Grazie per la potenza della tua parola. That is alive and working in the world today. Che è viva ed è all'opera nel mondo oggi. In Jesus' name. Nel nome di Gesù prego. For His glory. Per la sua gloria. Amen. Amen. Well, I hope you'll manage to get back here tonight. I'm going to do an exposition on two verses. Beh, io spero che possiate tornare già stasera, ok? Perché voglio fare l'esposizione di due versi. And on those two verses, I'm going to unpack a lot of misconception. E di questi due versi voglio tirar fuori tante convinzioni sbagliate. This will help you defend the gospel and explain the gospel. Questo ti aiuterà a difendere l'Evangelo, ma anche a condividere l'Evangelo ad altri. And I'm always happy when you bring your friends. E sono sempre contento quando ci sono amici che vengono invitati, quindi invitate amici stasera. Today I want to talk to you about jumping to Capri. Quello che voglio parlarvi questa mattina è di what's that? Capri, jumping to Capri. Di saltare Isola Capri. L'isola di Capri. Capri. Oh, sorry. Capri. Capri will be Capri. French. Capri. It's also American. Anche americano. Oh, time for a joke. Momento per divertirsi. Do you know what they call a person who speaks three languages? Sapete come chiamano una persona che parla tre differenti lingue? Trilingual. Trilinguista. Trilingua. You know what they call a person who speaks two languages? Come si chiama la persona che parla due lingue? Bilingual. Bilingue. You know what they call a person who speaks one language? Sapete come chiamano la persona che parla una sola lingua? American. Americano. Okay, I want to tell you start off that there are 10,000 religions in the world. Allora, voglio cominciare col dire che ci sono 10,000 religioni diverse nel mondo. Now these are recognized religions. E sono religioni riconosciute. Now, here's the fact. Allora, un fatto importante è questo. They can't all be right. Tutti potrebbero avere ragione. Some are so stupid you can't believe it. Ci sono alcune che sono così stupide che non c'è da credere proprio niente. Matter of fact, most are so stupid you can't believe it. Infatti è la maggior parte di esse che sono così stupide che non c'è proprio da porre alcuna fiducia. So it is just as easy for one religion to be more right than all others. Quindi è facile pensare che ce ne sia una religione che è al di sopra delle altre e ha più ragione di tutte le altre. As it is for all religions to be wrong. Oppure pensare anche che tutte le religioni siano tutte sbagliate. But it is absolutely impossible that all religions are the same. Ma è impossibile, assolutamente impossibile credere che tutte le religioni siano uguali. In some ways they are, but in most ways they're not. In molte cose si somigliano, ma in tante altre si differenziano. Almost all deistic religions, that is religions who believe in a God, okay. Tutte le religioni istiche che credono quindi in un Dio, they believe the same thing. Credono più o meno la stessa cosa. But Christianity and the gospel is different than all of those. Ma il cristianesimo e il Vangelo nello specifico è qualcosa che non è comparabile a nessuna di queste religioni. So what is the difference? Quindi qual è questa differenza dell'Evangelo? Before I ever made my first trip to Italy, prima che io facessi il mio primo viaggio in Italia, this is my 50th trip. Questo è il mio 50esimo. I owned an advertising agency. Avevo un'agenzia di pubblicità. And I had a client. E avevo un cliente. That owned a big furniture store. Che aveva un grande negozio di mobili. And he had a wonderful young Italian lady who did the cleaning in the store. E c'era questa bellissima ragazza che faceva le pulizie in questo negozio. And her name was Maria. E il suo nome era Maria. Maria. Maria. That's an unusual name for an Italian. Questo è proprio un nome non comune in Italia, vero? But I said, Maria. Io dissi a Maria un giorno. If you were to die tonight, gli chiesi se dovessi morire stanotte. Would you know that you're going to heaven? Sapresti con certezza se andrai in paradiso? Oh, she said, I think so. E lei ha cominciato a balbettare e a dire penso di sì. I said, well, why would you go to heaven? E io gli chiesi, beh, perché credi che finiresti in paradiso? When you stood before a holy God, nel momento in cui ti ritrovi davanti al Dio santo, what would you say about yourself that should allow you into his perfect place? Che cosa gli dirai per permetterti l'accesso al paradiso? She said, excuse me. E quindi riprese a balbettare. I'm a good girl. E io sono una brava donna, una buona donna. She's a good girl. Una buona donna. By what standard is she a good girl? Ma qual è lo standard per definire una buona donna? She might be a good girl compared to you. Perché potrebbe essere una buona donna in comparazione ad un'altra persona. Or you. A te. But o she a te. Is not a good girl when compared to the Lord Jesus Christ. Ma non potrà mai essere una buona donna in comparazione al Dio Santo. So there are six things that people say when you ask them if they know they're going to be with God when they die. Quindi ci sono sei differenti risposte che le persone danno quando gli chiedi se sono convinte e sicure di accedere al paradiso quando moriranno. The first one is I believe in God. La prima risposta che danno è io credo in Dio. The devil's the most convinced believer in God there is. Il fatto è che anche il diavolo è il più convinto di tutti che c'è e crede in Dio. I go to church. Oppure vado in chiesa. I've been baptized. O sono battezzato. I try to keep the Ten Commandments. Oppure mantengo i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti di Dio. But when you give them a test and ask them to name the Ten Commandments. Però quando già fai un test e gli chiedi di citare a memoria i 10 comandamenti, they can't even name what they are. Non riescono neanche ad arrivare a tutti e 10. Or I try to do the best I can. Oppure qualcun altro risponde, io sto facendo del mio meglio per riuscire ad entrare in paradiso. Here's the sixth one, I'm not too bad, I've never harmed anyone. La sesta risposta è, non sono una persona cattiva, non ho mai fatto del male a nessuno. What that person is saying, e quella persona, quel tipologia di persona sta dicendo, I'm not Mother Teresa, non sono Madre Teresa di Calcutta, and I'm not Adolf Hitler. E non sono però neanche Adolf Hitler. Somewhere not too bad. Sono una via di mezzo. Most religions, but not the New Testament, teach the same thing. La maggior parte delle religioni, ma non il Nuovo Testamento, insegnano più o meno la stessa cosa. Saint Paul, the apostle, in Romans chapter 1, verse 16. In Romani 1, al capitolo 1, versetto 1, l'apostolo Paolo dice questo. He said, "For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ." Dice io non mi vergogno dell'Evangelo perché. It is the power of God unto salvation. It is the power of God unto salvation. Perché la potenza di Dio per la salvezza. La potenza di Dio per la salvezza. To the Jew first. Per chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. And also to the Greek, to, the to Greek. Us. Sì. Well, this explains the difference. Però questo, ecco, un po' comincia a spiegare la differenza. To most people the gospel, the good news, sounds absurd and foolish. Per molti il Vangelo è pazzia e non ha nessuna logica. You have to have revelation from heaven to understand who Jesus is and what the gospel is. Ma devi avere proprio una rivelazione dal cielo per capire chi è Gesù e che cos'è la salvezza. That's why he says I'm not ashamed of this. Per questo l'apostolo Paolo dice io non mi vergogno dell'Evangelo. It might sound absurd. It might sound absurd. Perché può sembrare assurdo. But it's the power of God. Ma è la potenza di Dio l'Evangelo. He says most of you think a different way, everyone. E la maggior parte di voi crede diversamente, ha diversi concetti. And I know you think this way is nonsense. E alcuni di voi pensano che questa strada dell'Evangelo non ha senso. But this way separates itself from every other way. Ma questa strada in realtà si distingue da tutte le altre strade. This way says there's only one way. Questa strada dice che c'è solo una strada. I don't know who you are here today. Io non so chi sei, chi ho davanti a me questa mattina. But I can tell you this for sure. Ma ti posso dire con certezza questa mattina. There is only one credential you must have to get to God. C'è solo un credenziale che ti dà l'accesso a Dio. I received Jesus Christ as my personal Savior. Ed è questo, ho creduto in Cristo Gesù quale mio personale Salvatore. I trust in Him alone and nothing else. Io credo in Lui solo e nessun'altra cosa. And the mistake of all religions is misplaced confidence. E quello che le religioni invece fanno è posizionare diversamente la propria fiducia nella salvezza. E forse ci sono alcuni di noi che stanno ponendo la propria sicurezza di salvezza in una possibilità sbagliata. They say 35% of the people in American evangelical churches have never been converted to Christ. C'è una statistica che dice che il 30% dei cristiani che vanno in chiesa la domenica in America non è nata di nuovo, non ha salvezza. They sing the songs. Cantano delle canzoni. They raise their hands. Alzano pure le mani. They can quote John 3:16. Possono citare a memoria Giovanni 3:16. But they do not have a personal relationship with Jesus Christ. Ma non hanno una personale relazione con Cristo Gesù. Now I'm not a religious man. Ora io non sono una persona religiosa. I have no religious practices. E non ho nessuna pratica religiosa che seguo. I have a life to be led, but ho una vita che deve essere guidata. But I'm not a religious person. Ma non sono una persona religiosa. I don't do anything in any special order. I don't do anything in any special order. I don't pray in any certain way. Non faccio niente in un specifico ordine, né rituale. I'm not required to go to certain meetings. Non mi viene richiesto di seguire determinati incontri. And if you take the entire Bible from Genesis to Revelation, it's only about one thing. E se consideri la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, l'unica cosa che conta. It's about substitution. È la sostituzione, il concetto di sostituzione. The just for the unjust, that he might bring us to God. Il giusto che si sostituisce all'ingiusto, così l'ingiusto può accedere a Dio. So let me tell you what the gospel is. Quindi lasciatemi dire che cos'è l'Evangelo. It is Jesus plus nothing. L'Evangelo è questo, Gesù più niente. Nient'altro. How many agree with me? Quanti sono d'accordo con me? You understand the concept. Capite il concetto? You have nothing to say for yourself. Tu non hai niente da portare per salvare te stesso. But, ma, religions of human origin misunderstand the holiness of God. Ma le religioni che nascono dall'uomo non hanno un grande concetto, non hanno una concezione del Dio e della santità di Dio nello specifico. If you have your Bible, you can look with us. Se hai la tua Bibbia, puoi sfogliarla. At Romans 10. A Romani capitolo 10. 1-4. Dal versetto 1 al versetto 4. Where Paul writes, Apostle Paul. Dove l'apostolo Paolo scrive. For. Wow, look at that, it's all up there. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Fratelli, il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro, per gli israeliti, è che siano salvati. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. For they being ignorant of God's righteousness, perché ignorando la giustizia di Dio, and going about to establish their own righteousness, e cercando di stabilire la propria giustizia, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. For Christ is the end of the law. Poiché Cristo è il termine della legge. For Christ is the end of the law. Cristo è il termine della legge. To all of those per la giustificazione di tutti who believe. Coloro che credono. Christ is the end of the Ten Commandments. È Gesù il termine dei dieci comandamenti. Christ is the end of religion. Gesù è il termine della religione. Well, does that mean we just be evil people? Questo significa che abbiamo la libertà di essere persone cattive? If the Ten Commandments don't matter anymore, why don't we just be wicked and evil people? Se i dieci comandamenti non hanno più valore, allora perché non andare a fare tutto il contrario? Because it was God's desire to get the right kind of righteousness. Perché il desiderio di Dio era quello di ottenere la giusta giustizia. What the law could not do, quello che la legge non ha potuto fare, in making us righteous, nel portare giustizia, Christ dying on the cross did it. Gesù, morendo sulla croce, lo ha realizzato. I don't serve God out of fear. Io non servo il Signore per paura, terrore suo. I serve God out of gratefulness and thankfulness. Io servo il Signore da un cuore che è grato e che è in adorazione per Lui. I don't serve God to gain merit so I can get to heaven like Maria. Io non servo Dio per accumulare crediti per poi presentarmi a Dio come faceva Maria, questa donna delle pulizie. The Jews were zealous. You'll never be better than a Jew. E i giudei erano molto più zelanti nel fare le opere buone. Tu non sarai mai all'altezza dei giudei per il loro zelo nelle buone opere. I've been to Israel. Io sono stato in Israele. I've seen the Orthodox Jews. Io ho visto i giudei ortodossi. You are lazy. Tu sei un pigrone. These people pray five times a day. Loro pregano cinque volte diverse al giorno. They recite the Torah. Loro recitano a memoria tutta la Torah. They fast. Loro digiunano. They don't turn on their internet or TV. Loro non accendono internet e non guardano la televisione. Except when it makes money. Except what? Except when they make money. Solo quando c'è da fare soldi. Just a joke. Ma è solo uno scherzo. I gotta tell you a story. Vi racconto una storia. It's a little bit humorous, but it's true. È un po', c'è un po' di umore questa storia, ma è vera, una vera storia. And it explains a lot. E spiega molte cose. I travel a lot and preach and. Io viaggio e predico molto. And when I start to get to the end of my travels, I go one more sleep, two more sleeps, one more sleep. Ha, I'm going home. E quando sto per tornare a casa, allora mi rendo conto che manca ancora poco, ancora una notte, ancora un riposo e poi sono a casa. So I preach in a church in Parma, Italy. E quindi ho predicato una volta alla chiesa di Parma. And I say, I'm done. E alla fine ho detto, beh, ora ho finito. You can get tired of being spiritual. Lo sapete che potete essere stanchi nell'essere spirituali? 5 weeks, 20 countries or something, you get tired. 5 settimane, 20 nazioni diverse, beh, ti stanchi. I just want to go home. Io volevo solo tornare a casa. Then the pastor comes up to me. E il pastore poi è venuto da me e mi ha detto. And he says, oh, Tony. Tony. When do you leave? Quando te ne vai? Quando parti? Would you do a Bible study? Vorresti fare ancora uno studio biblico? So when? E io ho chiesto, ma quando? Tuesday night. E lui ha detto, martedì sera. I said, where? E dove? Emilia Reggio. Reggio Emilia. E mi ha detto a Reggio Emilia. I said, oh no. E gli ho detto no. He said, Nunzia wants you to come to teach the Bible at her house. Nunzia, she wants you to come and teach the Bible. Ah, c'è questa nunzia che vorrebbe tanto che tu venissi e facessi uno studio biblico. We don't think so, but okay. Oh, he says then, lasagna. E poi, però poi ha menzionato la lasagna. Lasagna, tortelli. Ha menzionato i tortellini. And I say, okay. E allora lì mi sono convinto, no? Reggio Emilia. So it's raining and we go to the house. E quindi sta piovendo, vado in questa casa. And there's her husband Roberto. E c'è il marito Roberto. He's a butcher. E lui è un macellaio. He's got his brand new Bible. E ha la sua Bibbia, il Bibbione nuovo. There's Francesca. E poi c'è Francesca. And she's there. She's got a brand new Bible. E anche lei una bella nuova Bibbia. And then there's Luca. E poi c'è Luca. He's about 13. E lui ha 13 anni. He's got his brand new Bible. E anche lui ha la sua nuova Bibbia. And we sat down and eat this wonderful bunch of food. E quindi ci sediamo e mangiamo questo cibo meraviglioso. And then we start to have a Bible study. E poi cominciamo ad avere uno studio biblico. And these are new Christians. Questi sono convertiti da poco, sono nuovi cristiani. So I thought, okay, we'll just do John 3:16 or something. E quindi ho pensato, dai, insegniamo su Giovanni 3:16. Well, I started on John 3:16 to explain the gospel in 16 and 17. Ho cominciato quindi da Giovanni 3:16 e poi anche 17 per spiegare l'Evangelo. And I can tell in a minute that she's lost interest. E io ho capito subito, dopo un minuto, che già stavano perdendo interesse. So she says to the pastor, in modo particolare questa annunzia, infatti dice al pastore, oh sorry, balbetta, pastore, ask him. My mother, she's a Roman Catholic. Chiedi, mia madre è nata cattolica romana. She said, Eva, if we are not in the right church, e lei dice, se non siamo nella chiesa giusta, the true church, nella vera chiesa giusta, we will not go to heaven. Non andremo al paradiso. I said, oh, that's a whole course in comparative religion. Ha detto, ah, qua si apre un insegnamento, un corso sulla comparazione delle religioni. So I started to answer the question. Quindi ho cominciato a rispondere alla domanda. She says, my brother. Ma lei ha ripreso. Fratello. My brother is a Jehovah's Witness. Ah, mio fratello è un testimone di Geova. He says that if he's not in the truth in the Jehovah's Witness, I will not. E lui dice che se non siamo nei testimoni di Geova, nella verità dei testimoni di Geova, non entreremo in paradiso. The kingdom of God, the kingdom of God. Nel regno di Dio. Oh. So I start to, oh gosh. No. Io ho cominciato a preoccuparmi. Now folks, trust me, I can do this. Sapete, io posso parlare di queste cose. But I need a week. Però ho bisogno di una settimana. Okay, so but I do my best to be nice. Però ho voluto essere molto gentile con loro. And then she says, my neighbor is my best friend. Però c'è un'altra persona, un mio vicino di casa che è anche un mio amico. And she's a Seventh-day Adventist. E lei fa parte degli avventisti del settimo giorno. And I want to tell you something. It was like when Jesus, when they brought the woman caught in the act of adultery. È stato come quella scena. Vi ricordate la storia dove portano la donna adultera davanti a Gesù? He got down on his knees. You remember this? E lui era lì in ginocchio. And he started writing in the dirt. E Gesù scriveva a terra nella polvere. And everybody, probably there's lots of opinion about what that was. Ci sono tante opinioni sul fatto che Gesù stesse scrivendo a terra. Some people say it was the Ten Commandments. Qualcuno dice che forse stava scrivendo i 10 comandamenti. Gesù. Nobody knows. Nessuno sa. So my opinion's as good as theirs. Quindi la mia opinione è uguale a quella degli altri. I think he was saying, "Oh God." Io credo che lui stesse dicendo, oh mio Dio, Father, oh Padre, downloading me something here. Download qualcosa dentro di me, fai scendere qualche rivelazione. He was just killing time. Stava perdendo tempo, secondo me, Gesù. So I reached for some more prosciutto. E quindi anch'io ho fatto così, ho preso qualche fetta di prosciutto in più. And then I said, what am I going to say? E ho cominciato a pensare, ma che cosa devo rispondere? And then a song came to my mind. E poi una canzone mi è venuta in mente. From 1958. Una canzone del 1958. The Four Preps. They won't get that. The name of un the inno. Group. The name of the group. The Four Preps. Il nome del gruppo. So anyway, that came to mind. This song. So I'm going to sing it for you. He doesn't have to. E quindi mi è venuta questa canzone e ve la canto. Lui non lo deve fare, riferito a me. Meno male. 26 miles across the sea, Santa Catalina is waiting for me. Romance, romance, romance, romance. You said I didn't have to. But This song came to me. Però questa canzone mi è venuta in mente, non è cristiana. And all of a sudden I just said, how far is it from California to Santa Catalina Island? E mi sono chiesto quanto è distante la California da quest'altra location che è nella canzone. She didn't know anything about that. You know, she didn't know where Santa Catalina Island was. Lei non sapeva, questa donna ovviamente di Reggio Emilia, non sapeva dov'era la Santa Catalina, l'isola di Santa Catalina. So I said, okay, how far is it from Napoli to Capri? E quindi ho cominciato a pensare, che distanza c'è tra Napoli e l'isola di Capri? Does anyone know? Qualcuno lo sa? Anyone know? Qualcuno? I took a hovercraft. E io ho preso un traghetto. 39 nautical miles. 39 nautical miles. Ah, 39 chilometri nautici. That's a long way, folks. Ed è un lungo tragitto. Do you understand what I'm talking about here? Sapete di che cosa sto parlando? It's too far to jump from Naples to Capri. Cioè, il discorso è questo, che non puoi fare un tuffo da Napoli e finire nell'isola di Capri. Is this too abstract for you? Capite che è troppo astratto tutto questo. The problem with all people is they got God down on our level. He's not on our level. Il problema della maggior parte delle persone è che cercano di portare Dio alla nostra misura, alla nostra altezza. Jesus is higher than the heavens. Gesù è più alto dei cieli. We don't have any concept of God's holiness. Noi non abbiamo la più pallida idea della maestà e della santità di Dio. All religions teach you if you obey what they say. Tutte le religioni dicono se ubbidisci a quello che la religione impone. At the end of your life you might get lucky. Alla fine della tua vita potresti essere fortunato abbastanza. And Allah might let you in. E Allah potrebbe farti entrare nel cielo. Ah, Buddha, there's no heaven in Buddha. I want you to know, no heaven. Buddha, beh, non c'è paradiso per i buddhisti. Buddhism is atheism. Buddhismo è ateismo, è la stessa cosa. But Judaism teaches if you do everything we say. Ma i giudei dicevano questo: se fate tutto quello che vi diciamo di fare. Believe our dogmas. Se credete nei dogma che noi vi imponiamo. You might get to heaven. Potreste entrare in cielo. And this isn't unusual to Catholicism. E questo non è diverso dal cattolicesimo, se ci pensiamo. Jehovah's Witnesses teach. Oppure dai testimoni di Geova. Mormons teach this. O quello che dicono i mormoni. Many Protestant churches teach this. E addirittura molte chiese protestanti insegnano questo. Get our baptism, do what we say. Battezzati e fai quello che ti diciamo di fare. And if you do enough, you might make it. E se lo fai abbastanza, forse ce la potrai fare. It is my guess in this room there are people who think if I do enough. E io provo a indovinare che ci sono delle persone anche proprio in questa stanza stamattina che stanno pensando se mi sforzo abbastanza, I might make it. Forse ce la potrò fare. I want you to look at me carefully. E io voglio che voi mi guardiate attentamente ora. If I drop dead right now, I know absolutely for certain I'll be with God, with Christ in heaven. Absolutely io ti dico questo, che se io dovessi morire in questo momento, sono convinto al 100% che sarò con Cristo. I have absolute assurance of acceptance with God. Io ho una sicurezza totale e assoluta dell'accettazione di Cristo della mia vita. I have not one credential. Io non ho nessun credenziale. That qualifies me for heaven. Che mi qualifica per entrare nei cieli, neanche una. Okay, so I stand before God, I'm dead, I stand before God. Quindi immaginate, io muoio, mi ritrovo davanti a Dio. Well, don't you know that I traveled a million miles? Beh, potrei dire a Dio, beh, non sai che io ho viaggiato un milione di miglia. Don't you know I attended 5 seminaries? Non sai che io ho fatto 5 percorsi seminari biblici diversi. Oh, God, don't you know that I preached in 1,000 churches? Non sai che io ho predicato a migliaia di chiese diverse. Don't you know, God, I slept in train stations? Non sai, Dio, che io ho dormito in situazioni assurde anche nei treni, nelle stazioni. On the floor of people's houses. A terra nelle case delle persone che mi hanno ospitato. Well, look what all I've done. Guarda quello che ho fatto, Dio. Here's what he's gonna say. Sapete cosa dirà Dio? What did you do with Jesus? E cosa ne hai fatto di Gesù? What did you do with my son? Che cosa, come hai trattato Gesù? God was in Christ reconciling the world unto himself. Dio era con Cristo nel riconciliare l'uomo a se stesso. Now I'm going to tell all of you something. Allora voglio dirvi qualcosa. If you're trusting in religion to get you to heaven, se tu stai ponendo la tua fiducia nella religione per entrare nei cieli, you're in the wrong boat and you better get out of the boat. Tu sei sulla barca sbagliata, devi cambiare traghetto. That is a sinking ship. Perché quel traghetto affonderà. If you think your effort will get you to heaven, that's the wrong ship. You better get out of it. Se credi che sono i tuoi sforzi a darti il merito di entrare in paradiso, salta fuori da quel traghetto, è sbagliato. That ship will sink. Perché quel traghetto affonderà. Now, let's take the best. Let's take the Pope. Prendiamo il Papa. Okay, we say Pope, jump from Naples to Capri. Allora diremmo al Papa, fai un salto da Napoli all'isola di Capri. And he 3 feet, 4 feet, e two lui, meters. E lui che fa? Maybe. Un metro, 2 metri di tuffo. The greatest, 3 metri di tuffo. The greatest Muslim. Il più grande dei musulmani. 3 feet. Salta, 1.5 metri. You take the Jehovah's Witness elder. Prendi uno degli anziani dei testimoni di Geova. How many know the name Billy Graham? Quanti conoscono il nome Billy Graham? I really liked Billy Graham. Io amo Billy Graham. I thought he was a very godly man. Io penso che lui sia stato veramente un uomo, un grande uomo di Dio. But he would tell you what I'm telling you right now. Però lui, nella sua condizione, ti direbbe la stessa cosa che ti sto dicendo io questa mattina. As good as everyone thinks I am. Ti direbbe, per quante persone possono credere che io sia un uomo di Dio? I know who I am. Io so chi sono. And I can't jump that far. E io non riuscirò mai a fare quel tuffo. If you're trusting, lontano. If you're trusting in your own effort, you're on the wrong boat. Se credi nei tuoi sforzi, sei nella tua barca. I guarantee you. E ti garantisco. Your boat will sink. Che questa barca affonderà. You have only one hope. Tu hai solo una speranza. Everyone only has one hope. Ognuno di noi ha solo una speranza. We do not preach this church. Noi non predichiamo questa chiesa. We don't preach our baptism. Noi non predichiamo il battesimo. We don't preach this guy. Non predichiamo quest'uomo. We preach Jesus Christ and him crucified. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. And that's foolishness to the world. E questa è pazzia per il mondo. But we say there's only one way you can know absolutely certain that you're on your way to heaven. Ma questa è l'unica strada che ti dà la sicura certezza di andare in cielo, in paradiso. 50 years ago this year I gave my life to Jesus Christ. 50 anni fa, quest'anno, io ho dato la mia vita a Gesù. I've never been sorry for one moment. Non mi sono mai pentito di aver fatto questa scelta neanche una volta. I have assurance when I lay my head down at night that I'm going to be with God and Christ in glory. Perché so che quando poserò la mia testa sarò con il Signore nella gloria. He has promised me in His Word. Lui l'ha promesso nella sua stessa parola. And God cannot lie. E Dio non mente mai. And one day I said yes to Jesus. E io un giorno ho detto sì a Gesù. And the Holy Spirit came into my life. E lo Spirito Santo è venuto nella mia vita. Transformed me. Mi ha trasformato. Took away my sins. Ha portato via il peccato. Gave me hope and joy. Ha messo in me speranza e gioia. Gave me a future. Mi ha dato un futuro. How many know what I'm talking about? Quanti sanno di che cosa sto parlando in questo momento? There's 7 of you. No, look at that. A lot of you. Sette, di più di voi. Maybe you're sitting next to someone who brought you here. Forse sei seduto qui e qualcuno ti ha portato qui per la prima volta. And now you say to that person, "Why did you bring me here?" E forse ti stai domandando a quella persona, perché mi hai portato qui? So that man up there can tell you the absolute truth. E la verità è che sei qui perché io ti potessi dire l'assoluta verità. Because I'm concerned about your soul, I love you. Perché io sono preoccupato per la tua anima. Ti voglio bene. Maybe you came in here and had no idea why you came in this place this morning. Sei venuto in questo luogo e forse non sai perché neanche sei venuto in questo luogo. And so right now it's not me, I am not speaking to you. Ma vorrei che tu capissi che in questo momento non sono tanto io a parlarti. Mirko is not speaking to you. E non è Mirko a parlarti. The Spirit of God is speaking to you. È lo Spirito Santo che sta parlando in questo Begin luogo. To pull at your heart. Perché ti sta toccando nel cuore. Light starting to come in there. Una luce sta cominciando a brillare dentro di te. And starting to give truth to you. E ti sta mostrando quella che è la verità. Now I have assurance, what we call assurance of salvation. Io ho la sicurezza della mia salvezza. And there's a reason for that. E c'è una ragione per questo. And we find that reason in Romans chapter 10, verses 9 and 10. E questa ragione la troviamo nel capitolo 10 di Romani, dal verso 9 al 10. Some of you might think. Alcuni di voi forse possono pensare. That the most important verse in the Bible is John 3:16. Forse puoi pensare che il verso più importante della Bibbia è Giovanni 3:16. Well, I will submit to you that it's not. Io vorrei farti riflettere che non è esattamente quello il verso più importante della Bibbia. This is the total gospel right here. Invece questo mostra tutto l'Evangelo. If you confess with your lips, your mouth, e dice così, se con la bocca avrai confessato that Jesus is Lord, Gesù come Signore, that he's the boss, che Lui è il padrone in altri termini, he's the captain, che Lui è il capitano, that you're nothing and he drives the truck, che tu non sei niente ma è lui il pilota che guida la barca, you're just a passenger, tu sei solo un passeggero, that you're crucified with Christ, che tu sei solo crocifisso con Cristo, you no longer live, che tu non più vivi, but the life you live now, ma la vita che vivi ora, you live by the love of the Son of God, la vivi nell'amore di Cristo Gesù, del Figlio di Dio, and your faith in him, e la tua fede in lui. But that's only one part of it. Questa è solo una parte. Lots of people say, I believe in Jesus. Perché molte persone dicono, io credo in Gesù. They confess with their mouth. E confessano anche con la bocca. But it goes deeper. Ma qui va più a fondo. Says, and you believe in your heart. E avrai creduto con il cuore. You believe in your heart. E avrai creduto con il tuo cuore. That's not the heart like this. Non è il cuore fisico. That's the very depth of your being. Proprio la parte più profonda del tuo essere. No one can take this away from me. E questa parte nessuno la può togliere da te. You believe in your heart. Avrai creduto con il tuo cuore. That he is raised from the dead. Che è risorto dai morti. And so you will be saved. Allora sarai salvato. For if you believe in your heart. Infatti con il cuore si crede. So you're justified. Per ottenere giustizia, per essere giustificati. And the one who confesses with his mouth. E con la bocca si fa confessione. He is saved. Per essere salvati. Now folks, how tough is that? How hard is that? Allora vi voglio chiedere, quanto è difficile tutto questo? Jesus paid it all. Gesù ha pagato il prezzo. You don't have to pay a thing. Tu non devi pagare nulla. It's ha pagato tutto lui. It's a free gift. È un dono gratuito. You can't earn a gift. Non puoi guadagnarti un regalo. If you do anything at all, it's not a gift. It's a perché se te lo guadagni non è più un regalo. It's a wage. È un premio, una cosa che ottieni. All you have to do is say, Lord, I'm sorry. Tutto quello che devi fare è dire, Signore, I repent. Mi pento. Some people think, oh, you repent and you start naming all your sins. Ah, qualcuno pensa no, il pentimento e cominciare a nominare tutti i peccati. You don't repent of every one of your sins. You don't do penance. Tu non fai penitenza, non è che ti penti di tutti i tuoi peccati elencandoli. You simply say, God, I've been wrong. Tu semplicemente dici, Signore, io sono sbagliato. I was going that way. Perché stavo andando in quella direzione. Trying to justify myself. Cercando di trovare giustificazione in me stesso. Feeling hopeless to do that. E poi trovandomi nella disperazione di non riuscirci. And now I turn around and I go the other way. E adesso mi giro a 180 gradi e vado nell'altra direzione. And I throw my full confidence on you alone. E butto tutta la mia fiducia, tutta la mia sicurezza in te e te solo. And I'll tell you what you'll get in your heart. E io vi dico cosa succede nel tuo cuore. You'll know that you're a child of God. Tu prendi consapevolezza che sei figlio di Dio. His spirit will bear witness with your spirit that you're his child. Perché la Bibbia dice che il suo spirito darà testimonianza al tuo spirito che sei un figlio di Dio. And nothing will ever separate you from his love. E niente ti potrà separare dal suo amore. Now while I'm saying these things, ora mentre dico queste cose, I'm looking out in this area right here, some women out there. Sto guardando lì alcune donne. And while I'm preaching, E mentre predico, and they're hearing good things, e stanno ascoltando queste belle parole, there's about three of them right there together. Ci sono tre di loro insieme. They're all going like this. Stanno annuendo con la testa. You know who you are out there. E lo sapete, no? Sapete a chi mi sto rivolgendo. And I can see that in places all over this room. E il bello è che posso vedere questa stessa reazione in tutta questa stanza. You could not agree with me unless you'd had this experience. Tu non potresti darmi ragione se non avessi sperimentato quello che io sto raccontando. To those who have never had this experience, this sounds ridiculous. Se non l'hai sperimentato, tutto questo può sembrare ridicolo. I can go to Thailand or China. Io posso andare in Thailandia o in Cina. And there will be people in the audience when I'm preaching. E ci sono persone esattamente come qui nella chiesa mentre predico che fanno così. I can go to Africa, Burundi. Io vado in Africa, in Burundi. Malawi. In Malawi. And I say these things. E dico queste cose. I wish they'd go like this. E speravo che facessero così. But they jump up and say, "Thank you, Jesus!" Allora sono più energici, loro sono più eccitati e saltano e dicono "Alleluia!" E così. Then they get the drums out. They start pounding the drums. E poi chiamano il batterista e fanno suonare il batterista. Running around the room. E cominciano a correre da una parte all'altra. And I have to stop. E quindi mi devo fermare. What I'm trying to tell you. Quello che sto cercando di dire is that people all over the world for 2,000 years è che tutte le persone in ogni parte del mondo per ben 2,000 anni in every culture in ogni cultura on every continent in ogni angolo della terra have heard what I'm saying here this morning hanno ascoltato quello che io ho detto questa mattina and have never been the same e non sono rimasti più gli stessi. Stand up everywhere in the room. Vogliamo alzarci. What I'm going to do right now is I'm going to appeal to you. Quello che voglio fare ora è fare appello a te stesso. San Paolo appealed to people. He persuaded them. L'apostolo Paolo ha persuaso, ha fatto appello alle persone. Would you bow your heads for a moment? E quindi io voglio chiederti di abbassare il tuo capo. Would you say in your own heart? E voglio chiederti, vorresti confessare questa cosa con il tuo cuore? Pastor, I've been on the wrong boat. E confessare se sei stato nel traghetto sbagliato, nella nave sbagliata, di dirlo. If I stay on this boat, I'm gonna go down with it. E ammettere che se rimani in quella barca affonderà. I'm gonna get off of this boat right now. E decidere nel tuo cuore di scendere da quella barca. In one second. E in un secondo. You can pass from death to life. Tu potrai passare dalla morte. Di quel traghetto you can, alla vita. You can pass from lost to saved. Tu puoi passare dall'essere perduto all'essere salvato. You can know that you know that you know that you know that you belong to God. E avrai quella sicurezza di sapere che sai, che sai, che sai con certezza che appartieni a Dio. All you have to do is do what I did. Tutto quello che devi fare, quello che io ho fatto. Jesus, I've resisted you too long. Sapete, io ho resistito a Gesù troppo a lungo. Come on in. Ora voglio che tu entri nella mia vita. Come on in. Vieni dentro. Make my life your house. Fai della mia vita la tua dimora. I give my life to you. Arrendo la mia vita a te. Now if you've thought that, would you raise your hand and if this is the first time for you, would you raise your hand and say, Pastor? Se hai pensato questo, the Spirit of God spoke to me this morning. E hai sentito che lo Spirito Santo ha parlato a te questa mattina? Posso chiederti di alzare la mano? Se questo è stato il tuo pensiero. I hear the truth in what you're saying. E hai detto io sento la verità in quello che è stato confessato stamattina. And in your heart, the best you can. E nel tuo cuore. Just pray with me as I pray. Ti chiedo di pregare con me. Lord Jesus Christ. Questa preghiera, Gesù Cristo, Signore. You know me better than I know myself. Tu conosci me meglio di quanto io conosca me stesso. You know what I think about. Tu sai quello che penso. You know what I say. Tu sai quello che dico. You know what I do. Tu sai quello che faccio. You know what I've been. Tu sai dove sono stato. And the beautiful thing is you don't care. E la cosa meravigliosa è che a te non importa tutto questo. You take me just like I am. Mi prendi così come sono. Jesus. Gesù. Forgive me. Perdonami. For rejecting you. Per averti rigettato. For living my own life my own way. per aver vissuto la mia vita nella mia strada, nella mia maniera. This morning, right now, questa mattina, in questo momento, at noon, a mezzogiorno, on this date, in questa data, I give my life to you. Io dono la mia vita a te. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Now, after we're finished here, ora che finiamo, I'm going to be down here. Io starò qui avanti, va bene? And if you'd like to talk to me, e se ti, si, se ti, ti fa piacere parlare con me, you say, oh, well, I only speak Italian, you speak English. E magari dici, vabbè, ma io non parlo inglese, io parlo italiano. There'll be somebody here with me. Ci sarà qualcuno con me che tradurrà, quindi non ti preoccupare. And you can just tell me what your need is. E tu puoi dirmi qual è il tuo bisogno. I won't be surprised by it. Non sarò sorpreso di nessuna richiesta. I'm just like you. Come te. Man saved by grace, a sinner saved by grace. Uomini, donne salvate per grazia. You can come and tell us, and someone will help me translate. E quindi puoi venire, come tante persone fanno, e noi pregheremo per te. And I'll pray for you. Pregherò per te. My prayer isn't magic. La mia preghiera non è magica. You could pray for me and be just the same. Tu potresti pregare per me, sarebbe la stessa cosa. But my prayer for you would maybe help you along the way. Ma la mia preghiera per te forse può esserti di aiuto questa mattina. So you're welcome. Quindi, to come forward. Quindi ti invito a venire qui avanti. As we sing. Mentre cantiamo, ok? Mentre cantiamo questo brano, potete venire avanti.